si rientra sui 103.1 su Seven Mind dei The Palette Plus. E siamo qui con Luca Santaniello, che insomma ha fatto da apripista, perché ha coronato il suo sogno, o almeno lo sta continuando comunque a coronare giorno per giorno, perché trasferendosi a New York è riuscito a conoscere grandissimi artisti e a portare avanti il proprio progetto musicale. Hai fatto davvero da apripista, perché comunque negli anni hai visto che anche i giovani italiani curiosi vengono a indagare nella nuova città del jazz internazionale, quella che è la realtà jazzistica. Assolutamente sì. Io vivo a New York da 16 anni e devo dire che negli anni ho visto che sempre più ragazzi, sempre più giovani jazzisti italiani vengono a New York per vedere, conoscere, aprirsi, imparare e cercare anche di suonare lì. Molti si trasferiscono, altri tornano in Italia o in Europa dove vivono e continuano a cercare stimoli grazie alla spinta che New York ti dà. E questa è una cosa molto positiva rispetto magari alla generazione precedente alla nostra, che era un po' più in difficoltà. Ma perché ci si muoveva anche di meno prima, no? Adesso la mobilità è cambiata, il nostro mondo è cambiato. Quindi ti capita di, quando torni in Italia, di parlare con dei colleghi che sono rimasti qui e che vedono la situazione un po' piatta? Devo dire che la maggior parte dei colleghi che conosco qui in Italia e con cui lavoro a New York ci sono venuti almeno una volta nella vita. E non solo a fare da turismo musicale, ma anche a suonare, a fare progetti, a registrare dischi. Quindi, e questo in un range di tutte le età, dal giovane di 18-20 anni fino al musicista più veterano oltre i 50. E quindi questa è una cosa bellissima, perché comunque vedi che in Italia c'è moltissimo talento, che il talento comunque ti spinge a volerti migliorare e che gli italiani a un certo punto si stanno molto aprendo culturalmente a non aver paura di farsi, di mischiarsi con ciò che non è necessariamente solo italiano, europeo o mediterraneo, visto che noi abbiamo questa identità molto forte culturale e musicale. Delle volte chi ha questa identità forte fa un po' fatica ad aprirsi. Invece vedo che questa cosa sta cambiando. Sì, anche a livello poi jazzistico in Italia i festival stanno andando sempre meglio, c'è sempre più partecipazione, quindi anche a livello di pubblico c'è una sensibilità un pochino più grande. Poi tra l'altro tu questo weekend sei stato a Vigarano a suonare allo Spirito insieme ad Andrea Pozza, Sara Darling. Come ti è sembrata la risposta del pubblico? Pubblico caloroso, bellissimo. Devo ringraziare Alessandro Ministri, il gruppo dei 10 che ci ha avuto lì ospiti. È stata una bellissima cornice. Abbiamo avuto, questo è stato uno dei tre concerti di questo progetto che abbiamo portato in giro, che si chiama Swinging Tale, cioè un racconto che swinga. Io amo suonare con le cantanti e quindi ho portato quest'ultima settimana questo progetto di tre date. E abbiamo avuto per due Sara Dowling da Londra e per un'altra abbiamo avuto la grandissima Patrizia Conte, che è una cantante di Taranto che però vive a Milano da tantissimi anni. È stata la cantante storica di Tullio De Piscopo ed è una bomba. È sempre un piacere portare una cantante che connette con il pubblico e che ricorda quell'elemento del jazz che è la canzone, lo swing. Tu poi a livello personale sei aperto a suonare in di modalità tutto. Differenti? Se la musica è bella e fatta bene, mi piace suonare di tutto. Ho sempre suonato di tutto. Sono partito con il famoso gruppo di rock nella tua prima città, dove no, quando avevo 14 anni, poi suonare subito jazz, ho fatto anche gli studi classici, quindi ho suonato musica contemporanea, musica lì sinfonica. Però è stata la mamma che ti ha un po' indirizzato. La mamma mi ha indirizzato, diciamo un po' tutti mi hanno indirizzato a fare gli studi classici, esatto. E io negli studi classici ho trovato tante cose e ho suonato sempre di tutto. perché comunque ricordiamo che ogni storia ha il suo percorso. Poi a chi fa da sé fa per te, chi fa da sé non è da intendere come mi sono fatto da solo, perché ovviamente nella vita ci sono milioni di interventi esterni che condizionano poi le nostre scelte. Assolutamente. Quindi chissà se quel giocattolo regalato a Luca all'età di 8 anni l'avesse regalato un po' più avanti, insomma, o magari qualcos'altro. Insomma, gli intrecci sono infiniti, molteplici. E per quanto riguarda poi l'intersezione America-Italia, possiamo ricordare la tua collaborazione con Torino. Sì, anni fa ho avuto modo di suonare con Emanuele Cisi la prima volta, è un tenorista di Torino. È venuto a New York, abbiamo registrato il nostro primo disco insieme in trio, senza piano, con Joseph Lepore al contrabbasso, che è un altro italiano. In realtà lui è italo-americano perché è nato a New York, poi è venuto in Italia, è cresciuto e poi è ritornato a New York in età adulta. Abbiamo registrato questo primo disco che è stato preso dalla Max Jazz, che è una etichetta abbastanza importante in America, dove Ron Carter, Kenny Barron, Benny Green hanno registrato tutti per la Max Jazz. E questo è stato una grande sorpresa per noi, perché Emanuele non se lo aspettava come primo sassofonista europeo a stare nella questa possibilità. Sì, e da lì è nata l'idea di voler creare qualcosa al Conservatorio di Torino che fosse un ponte con l'America. Quindi un ponte veramente tra la Juilliard School e tu in rappresentanza. Io in rappresentanza, Giulia. Ho fatto da tramite, ho aiutato, abbiamo lavorato a questo processo per cominciare questa collaborazione, abbiamo portato varie maestri dalla Juilliard, un gruppo di docenti mischiato a un gruppo dei migliori allievi della Juilliard che venivano a insegnare ai seminari del Conservatorio di Torino inizialmente durante il Torino Jazz Festival, dopo, insomma, indipendentemente da questa cosa, visto che il Torino Jazz Festival adesso non esiste più. Per quanto riguarda poi le tue evoluzioni, attualmente ricordiamo che insegni oltre a suonare, come vivi questa parte di docente dalla cattedra? Oppure sei uno che si mette di fianco? Io c'è un mio carissimo amico di Campobasso, un bravissimo chitarrista che sta anche a New York, si chiama Luca Tozzi, e lui mi dice sempre che sono io professore. Qui dalla cattedra, dall'alto, perché lui dice che quando io faccio professore viene fuori la mia natura. Sì. Quindi mi piace molto insegnare, come qualsiasi docente. Quando hai uno studente che vuole imparare è una grande figata. Almeno lì hai la soddisfazione di vedere qualcuno crescere. Impari tu stesso e ti piace anche tramandare quello che tu sai. E quindi insieme ai miei tour, parallelamente all'attività performativa, conduco vari workshop, uno dei quali si chiama Swingadelic. E l'ho portato, fatto varie date fra la Spagna e l'Italia in quest'ultima settimana. Quindi giustamente viaggi costantemente per portare la musica in modo da trasmettere anche quello che poi tu vivi nei viaggi. È estremamente importante, l'ho imparato dai grandi che lo fanno continuamente. È fondamentale. Hanno questo senso, questa missione del tramandare questa cultura, quest'arte che è il jazz, che di base è una cultura di tradizione orale. E questa, per esempio, è Scalinatella Longa Longa. Sì. È un tuo arrangiamento. Una tua composizione. No, è di Roberto Murolo. Ah, scusami. È un mio arrangiamento. Arrangiamento. Sì, e questo è un progetto sulla musica napoletana che ho fatto a New York, che meravigliosamente è stato sponsorizzato anche dal Dipartimento di Cultura della città di New York. Quindi ho chiesto dei soldi per finanziarmelo. E quando hanno visto professore, quando non si sono voluto di... Hanno visto professore, hanno visto Napolo. Hanno detto tutte le carte apposta. E mi hanno dato un po' di soldi per finanziare. Abbiamo fatto 3 concerti. Questa è la registrazione all'Istituto di Cultura della New York University. Abbiamo fatto questo concerto con Dana Stevens al sax, Joseph Lepore al contrabbasso e Tuomo Usitalo al piano. E Luca Santaniello, professore, batteria e arrangiamenti. We'll be right back. Allora, la mia domanda è la seguente. Prego. Prego. La mia curiosità, perché ogni artista poi vive l'esibizione in modo molto personale, quindi volevo capire, per te c'è un filo conduttore nelle tue esibizioni a livello emotivo? Oppure ormai sei a un livello che vai, suoni e ti lasci andare? Allora, se suoni senza emozioni stai fallendo, ma l'emozione devi imparare a controllarla. Perché se non la controlli e se l'emozione prende la tua mente e il tuo corpo, la musica non è fluida. La trasmissione fra il tuo cervello e il tuo corpo si blocca e quindi non esce la fluidità, non riesci a trasmettere con fluidità le cose. Nel caso del batterista non riesci magari a stare nel groove, no? Nel beat, a tenere il tempo fluido, a farlo danzare. E nemmeno a sviluppare le idee solistiche o di interazione che hai con gli altri musicisti. Questo vale per tutti i performers di qualsiasi arte performativa. L'emozione è importantissima, ci vogliono un po' di brividi, però il brivido non deve farti essere controllato, non deve farti tremare le mani o fare venire le palpitazioni. E quando improvvisate, perché immagino insomma che capiti spesso, che anche nei vari locali, sì. Nel momento in cui hai la possibilità di improvvisare, sì, lì è tutto nelle tue mani, quindi... Ok, ho capito quello che vuoi dire adesso. È bello, il jazz è bello, comunque molti si avvicinano al jazz perché c'è questa parte dell'improvvisazione che magari nella nostra tradizione europea colta si è un po' persa, no? La musica classica... Sì, non molto si improvvisa, più non si improvvisa più, per quanto ci sono dei anticamente, musicisti che conosco, storicamente, che dicono, se sì. Io so che ho la mia spartitura, comunque io ho il brano, ho fatto le prove, quello è il brano, lo conosco, vado più tranquillo. Quando devo improvvisare, sì, chiaramente l'improvvisazione, non essendo proprio libera, è frutto del tuo repertorio. Poi... È frutto di un linguaggio che hai acquisito, hai imparato, e quindi come stiamo facendo adesso, stiamo avendo una conversazione. Eppure non ci conosciamo tantissimo io e te, lo facciamo perché conosciamo il linguaggio, la lingua italiana, le sue regole, le sue eccezioni. E la stessa cosa vale con la musica. Conoscere un linguaggio musicale è fondamentale per avere una conversazione improvvisata con il musicista. Quindi in linea di massima il musicista classico oggi non studia più l'improvvisazione, quindi non studia più il linguaggio classico, per esempio, che ne so, facciamo conto, il linguaggio di Bach, non lo analizza più per poterlo interiorizzare e riprodurlo in quello stile. Prima si faceva questa cosa, anticamente, adesso non si fa tanto più. Quindi forse anche per questo che il jazz, nell'ultimo secolo è stata la musica più popolare che ha introdotto il fattore improvvisativo, no? Nell'ultimo secolo e mezzo più o meno. E quindi è quello associato all'improvvisazione, ma in realtà nella nostra musica folk, nella nostra musica tipo per esempio la tarantella, la pizzica o tutta la musica folk del sud, ma insomma in genere tradizionale di tutta l'Italia, di tutte le culture, è molto improvvisata, c'è molto di improvvisazione. Quando vai a improvvisare con dei musicisti nel jazz, sai benissimo il linguaggio che parli, conosci l'estetica di quel linguaggio e giri intorno a quella. Non è che è tutto libero, no? C'è questo diciamo, questa falsa... È una libertà... basata però su uno standard che è quello, certo, che ritorna. Sì, si improvvisa in genere sempre su una forma che è data dallo standard che suoni o dal pezzo che suoni, che ha una forma improvvisativa fatta di accordi, di una scatola di accordi nella quale ti muovi a circolo, e su quella si improvvisa. Questa cosa dipende da chi la fai, dove la fai, puoi venire bene o male. Vabbè, sicuramente se insieme a te c'è chi supporta il linguaggio a un livello alto, è chiaro che il risultato, esatto. Poi quando sono io professore, ma stiamo scherzando. Stai mettendo adesso una cosa bellissima, senti questa. continuano le chiacchiere anche fuori onda, ascoltando un Sonny Rollins con un St. Thomas che ci fa vibrare. Senti, senti qui che batteria di appena mi hai messo Max Roach che faceva mi ha cominciato a battere il cuore. Sì, quindi in questo caso il tuo petto si è aperto per il mio petto si è aperto per far ribattere il cuore. Per il cuore. E parlavamo fuori onda dell'importanza del bebop. Dicevi, non è detto che tutti siano d'accordo con me quando dico che è la base e tutti dovrebbero partire dal bebop se si appassionano poi a suonare jazz. Non lo so, c'è una tendenza adesso un po' in tutto il mondo, nel mondo del jazz, di voler rinnegare un poco il passato, perché c'è questa nevrosi nel jazz dove bisogna essere personali, c'è un po' il mercato che te lo chiede, c'è un po' questa falsa idea che se suoni jazz devi avere la tua voce, la tua personalità. Questo non è sbagliato, assolutamente. Però c'è molta resistenza nel voler passare tempo a studiare la traduzione e a copiare i grandi. Dici che c'è fretta? No, c'è un po' un rigetto, come per dire, no, se io copio i grandi, se io imparo Charlie Parker o per quanto riguarda l'improvvisazione melodica, ma se imparo a suonare come Max Roach o Philly Joe Jones, no, non caccio fuori la mia personalità, copio comunque quella roba vecchia. Questa è una cosa che sento un po' dappertutto in Europa, purtroppo anche in America sta cominciando a essere questa cosa così, in Italia anche molto. E, è un po' voler diventare un poeta di lingua tedesca senza conoscere la grammatica tedesca, è un po' un problema. Sì, anche perché la base della comunicazione musicale nasce poi perché c'è un'esigenza che è la comunicazione. Assolutamente. Quindi se tu vuoi suonare, vuoi anche comunicare, mm-hmm. però se non sai che appunto il linguaggio parte da lì, ti manca poi un pezzo. È come un grande pezzo. E poi alla fine non sei convincente, credo. Qualsiasi cosa tu suoni, se hai saltato quel pezzo non sarai mai convincente. Mancherà sempre qualcosa. E volendo citare per esempio dei musicisti che stanno facendo la storia del jazz contemporaneo e che hanno fatto la storia del jazz in genere, come Joe Lovano oppure Ron Carter, con cui ho suonato, parliamo di due personaggi che hanno suonato di tutto nella musica, di tutto, però hanno questa fortissima personalità radicata nella tradizione della musica. Forse quella è la cosa più difficile, attingere dai grandi mantenendo la propria personalità. Quindi magari molti dicono, vabbè, forse non è detto che io poi riesca a fare questo, se non lo studio, non lo imparo, non mi appartiene, quindi non riuscirò a contenerlo. Secondo me si usa un po' la parola sbagliata, personalità. Quando quello che noi vogliamo avere è la comunicatività, perché la personalità per me si compie nel momento in cui tu prendi lo strumento in mano, che tu sia anche un principiante. Il modo in cui tu suonerai lo strumento, il suono che caccerai, il modo in cui tu ti approccerai anche fisicamente allo strumento è solamente il tuo, può essere solamente il tuo. Lo stile che ti è inconfondibile. Che il tuo suono, il suono della tua voce sarà sempre il tuo. Lo potrai migliorare, lo potrai abbellire, addolcire, raffinare, chiaramente con lo studio e l'esperienza, ma di base qualsiasi cosa tu suoni sei tu, anche se suoni magari un solo trascritto di Charlie Parker, non sarai mai Charlie Parker, vero? Vabbè, quello... Cosa colpirà? È la tua capacità di comunicare qualcosa attraverso quel linguaggio. Sì, come quando si reinterpreta una canzone. Esatto. È chiaro che non sarai il cantante che l'ha interpretata per prima, ma riuscirai a comunicare comunque un qualcosa in più. Perfetto. Se si è in grado. Ma quell'essere in grado arriva con lo studio, col tempo, con l'esperienza, con andarci profondamente dentro. Se si rimane in superficie, ha voglia di comunicare, insomma, sarai sempre un po' fallaceo. Io ti ringrazio tantissimo, Luca. Elisa, sei bellissima, grazie per avermi. Grazie, io sono felice di aver chiuso questo 2017 con un artista che ha davvero tanto da comunicare. Io spero di rivederti presto anche a New York. Benissimo, speriamo, anche perché insomma ho avuto la possibilità di vederti suonare in un locale come lo Small. Che onore. Che onore, davvero. Grazie ancora. Grazie a tutti gli ascoltatori per averci dedicato un po' di tempo della loro giornata. Voi rimanete ovviamente sui 103.1 perché adesso inizia Jazz Live, quindi mattinata jazz, ragazzi. E ci salutiamo con un altro grandioso, Thelonious Monk con Caravan. Yeah baby.